benvenuti a tutti, nuovo ed ultimo appuntamento con NBA Week per la stagione 2017-2018 su Radio Big World. Puntata sul futuro, questa di NBA Week, puntata per l'esaltezza, conclusiva come già detto. Abbiamo di fronte tante cose, principalmente un'estate che auguro a tutti serena e riposante, oltre che divertente. Abbiamo di fronte mesi caldissimi di mercato, con la free agency, la potenziale ennesima decision di LeBron, tante squadre che sembrano vicine al salto di qualità se non per singole aggiunte. La post-season appena conclusa ha dato qualche indicazione, per cui voglio fare così. Premettendovi che si tratta di puro fantabasket, che non parlerò di draft né di spazi salariali, in questa puntata visionaria proverò a raccontarvi una serie di sogni in relazione a quello che potremmo vedere all'avvio della prossima stagione. Per iniziare è opportuno puntualizzare che di free agent potenzialmente importanti in inserimento in alcune squadre in cerca di un ulteriore salto di qualità ce ne sono tanti, così come giocatori che hanno deluso per una ragione o per un'altra nella stagione appena conclusa. Quelli che potrebbero chiedere la cessione o finire in una trade per liberare spazi ed avviare indirettamente ricostruzioni sono piuttosto numerosi. Tra questi c'è inevitabilmente un Carmelo Anthony che difficilmente però riuscirà a muovere, considerando che nessuno probabilmente avrà voglia di prenderselo, ma c'è anche potenzialmente Kyle Lowry, c'è Kemba Walker che appare obiettivo di Cleveland nel tentativo dei vice campioni di convincere James a restare. Ci sarebbe anche Chris Paul, che per la verità è in una condizione diversa e si dice che potrebbe convincere o James o Paul George a raggiungerlo a Houston, oppure muoversi al loro seguito, quantomeno più che altro al seguito di LeBron James, anche se di teorie in questi giorni se ne leggono infinite. E rispetto a CP3 credo che lo rivedremo tranquillamente in Miami Rockets senza LeBron al suo fianco, chissà se con Paul George. Ci sono anche giocatori esperti come Trevor Ariza o JJ Redick che potrebbero cambiare casacca. C'è un Kyrie Irving che ha già iniziato a mettere pepe sulla free agency Ventura. E poi ci sono quelle squadre attesissime, o perché ad un passo dal saltissimo di qualità, o perché per dichiarazioni promettono rivoluzioni. Come si vocifera in entrambe le sponde losangeline, ad esempio, da almeno 2 anni. Per quanto riguarda i Lakers e la free agency, ci sono fondamentalmente 3 giocatori che da tempo vengono indicati come loro obiettivi. Si tratta di LeBron James, Paul George e DeMarcus Cousins. In realtà ultimamente sembra essersi aggiunta una quarta stella potenzialmente interessante, Kawhi Leonard, in rotta praticamente ufficiale con i San Antonio Spurs, del quale comunque parleremo in seguito. Anzi, aggiornamenti relativi a voci recentissime parlano anche di un Paul George quasi convinto a restare ad OKC, anche se poi immediatamente dopo smentite, e di una San Antonio che inizialmente non voleva valutare nessuno scambio potenziale per Kawhi Leonard, ma che dopo non essere riuscita a convincere il giocatore si trova aperta a vagliare tutte le ipotesi possibili, quantomeno le più convenienti. Ma in questa fase ancora nebulosa le certezze sono zero, e fino all'ufficialità di un accordo raramente i rumors possono avere realistico diritto di cittadinanza. Anche e soprattutto per questo ho scelto di tracciare una serie di prospettive immaginarie ed improbabili. Oltretutto, noi stiamo registrando alla vigilia del draft, e quindi da stanotte potrebbero esserci già alcune concretizzazioni di movimento precedenti ovviamente alle scelte. Come voi sapete è una cosa che spesso accade e che comunque potrebbero già smentire tutto quello che sto per provare ad immaginare. Tra l'altro è notizia di pochissimi minuti fa il fatto che Dwight Howard ha lasciato Charlotte per accasarsi a Brooklyn. Torniamo però a parlare dei Los Angeles Lakers e torniamo a fantasticare, anzi iniziamo. Le scelte di quei 3 giocatori già citati, a mio avviso, determineranno i movimenti di mercato di tutta la Lega in conseguenza, o almeno gran parte di questi. Per LeBron e Paul George si è parlato tantissimo anche di Philadelphia, seppur il re sia accostabile e accostato, come abbiamo già detto, anche a Houston, ma lo stesso vale per George. Per DMC, invece, considerando i dubbi che desta la sua condizione fisica, la probabilità di restare a New Orleans è relativamente alta e determina indirettamente il futuro della franchigia, perché partendo lui si rischia di vedere aumentare anche il desiderio di Anthony Davis di guardare altrove. Ammettiamo quindi che James si muova prima di tutti ed ammettiamo che scelga Los Angeles Sponda Lakers. Ci sono mille motivazioni per cui la Sponda Lakers appare la più probabile per lui e la prima è indubbiamente il blasone della franchigia. La seconda rappresenta la sfida del re per provare a conquistare l'Ovest per la prima volta in carriera, dichiarando battaglia ai Golden State Warriors da dentro la stessa conference. La terza è il fatto che aggiungere James ad un gruppo giovane ma futuribilissimo come quello formato apparentemente da Ball, Ingram, Kuzma e Randall favorirebbe da subito un innalzamento di livello degli stessi nei top ranking. Dopo magari un anno da chioccia, con inevitabile ritorno ai playoffs, la squadra potrebbe puntare da subito in alto con i dovuti accorgimenti nel supporting. Questo ovviamente, almeno che non arrivi anche qualche altra stella insieme a LeBron James. Comunque noi ci stiamo immaginando solo LeBron a Los Angeles. La quarta, tra l'altro, è una notizia recente, seppur simil gossip e seppur anche smentita da qualcuno, riguarda il figlio di LeBron James che avrebbe scelto l'area Los Angelina per la sua high school. La quinta ed ultima è comunque circoscritta alla città di Los Angeles, che è comunque un mercato tra i più grandi d'America. Dal clima sempre splendido, quantomeno rispetto a Cleveland indubbiamente sempre splendido, e dalle possibilità economiche di investimento che sicuramente possono attirare un giocatore e anche quindi un uomo di affari come LeBron James. Da un punto di vista di completamento in squadra, da subito pronta a competere, Philadelphia offrirebbe comunque qualcosa di simile a LeBron, con la possibilità di completare quel process che ha come Bernie Embiid, Saric, Simmons e probabilmente, anzi sicuramente, Markelle Fultz, che a mio avviso sarà il primo grande acquisto dei Sixers per la prossima stagione. Quello destinato a sedurre James come prospettiva è più o meno lo stesso che può sedurre Paul George, il quale mi appare leggermente più adatto al completamento dei 76ers e soprattutto sarà obbligato ad opzionare la questione se James si muovesse prima, perché io entrambi a Los Angeles li vedo un po' improbabili, anche se non impossibili, e comunque potrebbero anche essersi già messi d'accordo o mettersi d'accordo in seguito per giocare insieme. Contemporaneamente comunque si parla anche di Houston, decisa per Paul George, come abbiamo già detto, come potenziale alternativa a James nell'acquisto dell'anello mancante, che potrebbe offrire ad Antoni il salto di qualità ultimo per il raggiungimento potenziale delle prossime NBA Finals. Comunque, restiamo dentro la nostra ipotesi onirica. Nel nostro sogno, James, muovendosi ai Lakers, sposta Paul George a Philadelphia, mentre DeMarcus Cousins potrebbe trovare difficoltà a dimostrare di meritarsi un contrattone ai Pelicans, magari dubbiosi del suo completo recupero fisico. Ma Los Angeles potrebbe avere ancora spazio per firmare qualcuno di importante, anzi lo avrebbe sicuramente, e potrebbe servirgli proprio un centro. Un'opzione in realtà l'avrebbe già in città, Sponda Clippers. Si tratta di DeAndre Jordan, che è dato per partente praticamente da metà del campionato appena concluso e che a LeBron James non dispiacerebbe assolutamente, considerando che non dovrebbe neanche traslocare. Altrimenti però l'assalto a Cousins potrebbe essere realisticamente possibile, anche se necessitasse di tempo per abituare il suo corpo al post infortunio, sarebbe ben garantito da un roster che non lo obbligherebbe a tornare subito decisivo ed esplosivo. Dovrebbe certo accettare di non essere prima donna, ma tutto sommato con LeBron James e comunque con Lonzo Ball, le occasioni per costruirsi i propri tiri dovrebbero essere più che sufficienti. Immaginatevi un quintetto con Ball, James, Kuzma, Ingram e Cousins. Io lo vedrei veramente molto bene, magari con Randall da sesto uomo, oppure magari in campo, al posto di Kuzma, che potrebbe partire con Hart dalla panchina. Non vedrei assolutamente male neanche DeAndre Jordan al posto di DMC in questa struttura di Starting Five, però nel nostro sogno abbiamo deciso di immaginarci Boogie optare per il giallo-viola, quindi andiamo avanti. A questo punto ad ovest i Warriors e i Rockets dovrebbero accettare la sfida di riconfermarsi contro una Los Angeles destinata a diventare outsider fastidiosa fin da subito, seppur necessitante di almeno una stagione di rodaggio per attentare al titolo di conference. Ad est, una Boston che riabbraccerà Hayward ed Irving potrebbe guardarsi dietro con timore a vedere magari Paul George insieme a Joel Embiid e Ben Simmons, e quindi Boston potrebbe avere bisogno di un ultimo tassello per trasformarsi in squadra da titolo. I due già citati non si possono toccare, così come sarà teoricamente intoccabile Jason Tatum. Tutto il resto, che è comunque tanta roba, potrebbe anche essere messo nel piatto, ovviamente non tutti insieme, se si dovesse poter arrivare ad un giocatore capace di dominare anche sotto canestro, un giocatore di quelli importanti Verdi, che porti un salto di qualità rispetto al già ottimo Al Horford. Immaginiamoci a questo proposito Anthony Davis, ed immaginiamocelo deluso dalla partenza di Cousins, privo di prospettive di vittoria in una franchigia che rappresenta una città con la quale non è mai scattato un amore, diciamo, appassionante con la pallacanestro. E se Anthony Davis a quel punto forzasse mai una trade con Boston, i Pelicans resterebbero con un Drew Holiday confermatissimo da affiancarsi ad almeno tre ottime opzioni provenienti dai Celtics, magari due delle quali potrebbero essere Rozier e Jalen Brown, che con i rientranti perderebbero minuti e chance. Potrebbero ripartire senza annegare, liberando un top player che potrebbe far sognare contemporaneamente una città che di titoli ne ha già festeggiati tanti, più di tutti gli altri nella storia della Lega. Nel nostro sogno, quindi, Anthony Davis cambierebbe conference e renderebbe la sfida tra Boston e Philadelphia per la supremazia d'Est veramente spettacolare. Soprattutto toglierebbe di mezzo quella storia per cui la Eastern Conference è nettamente inferiore alla Western Conference e quell'idea bislacca di cambiare struttura e criteri di qualificazione dei playoffs che era stata paventata qualche mese fa. Probabilmente Adam Silver esulterebbe come pochi altri, forse anche più di noi fans accaniti, che avremmo un campionato finalmente esaltante da gustarci. Anche perché, guardando ad Est, l'ottimo potenziale mostrato da Indiana e Milwaukee nella ultima post-season avrebbe tempo e modo di proseguire ampliandosi, crescendo e lavorando sul miglioramento di strutture che potrebbero ambire a divenire eccellenti in 3 o 4 anni. Per quanto riguarda i Bucks, magari semplicemente aggiungendo un coach voglioso di far convivere Jabari Parker con Giannis Antetokounmpo, nel caso dei Pacers ripartendo dalla splendida serie giocata nel primo turno dei playoffs contro i Cleveland Cavaliers. Anche se rispetto ai Bucks, Jabari Parker potrebbe essere un outsider di mercato capace di far gol a molte franchigie, ulteriormente perché si dice, si vocifera, che né lui né Eric Bledsoe siano compagni graditi a Giannis Antetokounmpo. Comunque, tutto è bene quel che finisce bene, diciamo, ma per essere completamente soddisfatti tutti, compreso Adam Silver, questa serie di movimenti innescati dalla decision Los Angelina di James dovrebbe arrivare anche a New York, ed anche in un'altra nobile decaduta, o quantomeno in vertiginoso decadimento, geograficamente situata in Texas. Sto parlando di San Antonio, squadra per la quale il tempo continua a scorrere inesorabile, ai ferri corti, come già detto, con la stella di squadra Kawhi Leonard, destinata a guardare oltre i senatori Gasol, Ginobili e Parker, anche ammettendo una loro ultima eroica riconferma. Leonard se ne deve andare, ed in qualche modo è importante capitalizzare al meglio la sua cessione. Difficile però trovare una squadra capace di disfare il già certo per un giocatore potenzialmente fortissimo a mio avviso, ma fermo sostanzialmente da un anno, visionato solo all'interno di un sistema come quello di Popovic, abbastanza autoreferenziale. Gli Spurs chiaramente e giustamente puntano in alto, e ci sono ipotesi realisticamente riportate che vorrebbero Leonard al fianco di James e Paul George ai Lakers, come già detto, il che porterebbe giovani in cambio e potenzialmente nuove pedine importanti per Popovic e per la ricostruzione degli Spurs. Oppure si vocifera anche di uno scambio che per la verità avrebbe dovuto concretizzarsi in queste ore, quello con Cleveland, che avrebbe potuto offrire la propria scelta di primo giro del draft in arrivo, più Kevin Love agli Spurs, per ottenere Leonard e convincere quindi LeBron James di riflesso a restare. Ma proviamo ad inventarci qualcosa di poco sentito proprio su Kawhi. Ora, sappiamo benissimo che Leonard è sfuggito per mesi a New York, ufficialmente per curarsi. Chissà che la città non gli sia piaciuta. Chissà che non sia attirato anche dalla storia in decadimento perpetuo dei Knickerbockers. Chissà che non possa sognare di essere acclamato al Madison Square Garden. Sarebbe difficile ripartire a New York facendo bene da subito, ma in un progetto in cui Leonard rappresenterebbe il fulcro di un sistema di gioco capace di sfruttarne le capacità, le sorprese potrebbero portare a crescite rapide. Per giungere ad un lieto fine, però, sarebbe necessario che i Knickerbocker avessero da offrire qualcosa di importante ai San Antonio Spurs, cosa apparentemente da escludere al momento, almeno che non si pensi a Kristaps Porzingis. Non so se vi sembra una bestemmia, però provate un attimo a pensarci. Porzingis è reduce da un infortunio gravissimo che lo pone in condizioni simili a quelle di DeMarcus Cousins. Della serie molti si chiedono se tornerà come prima. Ulteriormente si dice che potrebbe rientrare notevolmente in ritardo anche rispetto all'avvio della prossima stagione. Facciamo forse nella seconda metà della stessa, probabilmente. È vero, New York nel frattempo potrebbe utilizzare al meglio la scelta a disposizione nel prossimo draft e quindi potrebbe aspettare con calma il Lettone tankando un anno in più. Oppure potrebbe scambiare il Lettone stesso a San Antonio per ripartire dal deluso Kawhi Leonard, e questa è la mia ipotesi. Se ci pensate, gli Spurs non avrebbero urgenza di inserire al 100% da subito Porzingis in quello che sarebbe il suo posto, cioè a fianco di LaMarcus Aldridge, per formare una coppia di Twin Towers ottimamente amalgamabili per caratteristiche. Popovic potrebbe aspettare Kristaps per tutto il tempo necessario a recuperarlo con certezza, magari producendo comunque una stagione di sufficiente livello come quella appena conclusa, investendo ulteriormente sulla crescita di DeJounte Murray e programmando la definitiva exit strategy dei Senatori. Del resto, Gasol un anno in più a fianco di Aldridge lo potrebbe anche giocare, quindi uno scambio del genere è fantabasket puro, basato sostanzialmente su nulla, ma favorirebbe un futuro potenzialmente interessante sia per una squadra che appare sottoterra a livello di prospettive come New York Knicks, che per uno nobile che rischia di far quella fine a breve come i San Antonio Spurs. Lo so, sarete in tantissimi ad offendermi violentemente giunti a questo punto del podcast, oppure a ridere a crepapelle delle inesistenti possibilità che tutto ciò possa materializzarsi. Ed in effetti, lo ammetto, ho un po' esagerato. Ulteriormente, non è che le mie profezie in questa stagione siano state spesso azzeccate, per cui ricomponetevi un attimo ed accettate quello che avevo premesso, cioè che si trattava di un gioco, di un sogno, di immaginazione, di un modo per occupare ottima parte, se non quasi tutta, dell'ultima puntata stagionale. Anche perché chiaramente voi vi domanderete che fine farà John Wall, cosa succederà adesso a Cleveland se LeBron veramente se ne va, cosa succederà a Kevin Love, se Minnesota smonterà tutto un sistema rivelatosi poco efficace nell'ultima stagione, come potranno capitalizzare lo scambio recente di giocatori i Clippers e i Pistons. Insomma, ci sono mille argomenti a partire dal draft che accadrà, avverrà stanotte, voi già conoscerete l'esito, e anche dalla consegna degli award stagionali, prossima avventura che ho deciso di ignorare. Non ci sarebbe tempo e comunque esiste un mondo di persone più competenti di me capaci di parlarne realisticamente e quotidianamente in differenti formati, quindi io vi lascio nelle loro mani perlomeno per quanto riguarda i prossimi mesi. È stato un immenso piacere replicare l'avventura iniziata lo scorso anno con NBA Week e seguire una stagione tutto sommato divertente in una lega che continua a non perdere appeal grazie a protagonisti e storie di altissimo spessore. Il mio ringraziamento va quindi a voi che mi avete seguito, a maggior ragione valutando come punto di ripartenza la crescita di ascolti ottenuta e consolidata con l'aumentare delle puntate di quest'anno. Per uno come me, che lo fa per pura passione e divertimento, era assolutamente qualcosa di insperato. Ringrazio velocemente anche Radio Big World che mi ha ospitato anche per questa stagione ed il grandissimo Belli 13 che ancora una volta ha sostenuto il mio podcast rimbalzandolo sul suo seguitissimo canale YouTube, farcendo i miei audio con immagini ad hoc seguendo il flusso narrativo. Ringrazio infine anche gli amici di Radio Valdarno che per la prima volta in questo campionato hanno deciso di inserire NBA Week nel loro palinsesto. Quindi grazie di cuore a tutti, speriamo di risentirci ad inizio della prossima stagione e buona estate!